Modena 2009-2010. Ellero, perché studiare la Bibbia? Tutte le grandi religioni hanno libri sacri o scritture. Perché studiare la Bibbia e non il Corano dei musulmani, i Veda e Yanga degli Hindù, di Avesta dei Parsi, il Granth dei Sikh, i classici cinesi, i testi sacri dei giapponesi o il canone sanscrito del buddismo, per citare solo alcuni dei maggiori testi sacri dell'umanità. Se i cristiani credono che solo la Bibbia sia l'inerrante rivelazione di Dio e credono che lo Spirito Santo abbia guidato gli autori a scegliere le singole espressioni, se credono che Dio li abbia preservati dall'errore e abbia rivestito dell'autorità divina il loro messaggio, scritto, lo fanno a ragion veduta. Noi considereremo solo cinque ragioni per dimostrare che la nostra scelta è fatta obiettivamente e razionalmente. 1. La sua attendibilità. Nessun risultato della scienza, dell'archeologia, della fisica, della geologia o dell'astronomia si trova ad essere in contraddizione con la Bibbia. Non solo, rimane semplicemente prodigioso il fatto che la Bibbia, nonostante descriva la natura, la creazione, gli astri, la luce, l'atmosfera, gli elementi, le montagne, gli animali, le piante, e parli di Israele e si riferisca ai grandi imperi attorno alla Palestina con i loro re, le loro guerre, i loro governi, lo faccia con esattezza. Mentre gli errori più grossolani sul mondo fisico come sulle divinità si trovano in Omero, nella mitologia greco-romana, nei libri degli Hindù, nelle tradizioni buddiste e musulmane. Risulta ormai più che provato che anche i filosofi antichi più geniali, come Aristotele, Platone, Plinio, Plutarco e Lucrezio, hanno scritto delle assurdità. Perciò chi rifiuta l'autorità della Bibbia non lo fa perché essa si contraddica, per quanto vi possano trovare delle apparenti incoerenze, ma perché essa lo contraddice. Ha ragione un ateo, diceva, vi è una sola cosa che guasta tutto il piacere della mia vita, la paura che la Bibbia sia vera. Conclusione, la Bibbia si distingue da ogni altro libro religioso perché è degna di fede logica. 2. La sua cultura. Per quanto riguarda noi italiani o noi occidentali, la nostra storia, la nostra letteratura, la nostra filosofia, la nostra tradizione giuridica, i quadri dei nostri musei e i monumenti delle nostre città, tutte le componenti che formano la nostra civiltà trovano le loro radici e la maggior fonte di ispirazione da ciò che Gesù ha insegnato. Culturalmente questa è la nostra provenienza. E la Bibbia, rimane il grande codice etico entro il quale la letteratura e l'arte occidentale hanno operato fino al XVIII secolo e nel quale stanno ancora in larga misura operando. Com'è possibile, almeno dal punto di vista culturale, rimanere privi di conoscenza in materia? Preso atto di questa eredità, resta da spiegare come mai la scuola italiana di tutto questo non si ponga neppure il problema e come sia possibile laurearsi in lettere, storia, filosofia, arte, senza neppure conoscere almeno superficialmente gli insegnamenti di Gesù. Una spiegazione plausibile è che il cattolicesimo romano, che ancora possiede una certa egemonia, sia più interessato a far conoscere al credente i contenuti religiosi della religione cattolica e alla sottomissione di questo alle autorità a esso preposte, piuttosto che indirizzarlo a Gesù Cristo quale Salvatore e Signore. 3. La sua morale. È indiscutibile che la morale biblica sia superiore ad ogni altra morale religiosa. Con questo non si vuol dire che nelle altre religioni non vi siano insegnamenti moralmente buoni, ma la morale cristiana non ha paragoni. Nessuna religione ha mai dato ai suoi adepti comandamenti migliori di Gesù, quali per esempio fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure ama il prossimo tuo come te stesso. Anzi, si può dire che i grandi maestri di fede e di virtù si rifanno direttamente o indirettamente agli insegnamenti di Gesù. Ad una intervista fatta a un Dalai Lama, questo disse che il buddismo insegna che due emozioni contrarie non possono coesistere contemporaneamente nello spazio della nostra mente. Se proviamo rabbia o odio per una persona, dovremmo sforzarci di sviluppare amore nei suoi confronti, così le emozioni negative spariranno da sole. Per quanto questi insegnamenti siano buoni e utili, non viene mai detto niente che non sia già stato enunciato nella Bibbia, e nessuno può essere portatore di una morale nuova al di fuori di quella che è stata trasmessa una volta per sempre nella Bibbia. 4. E la parola di Dio. È vero che vi sono tanti testi religiosi, ma la Bibbia si distingue da essi perché è l'unico testo che afferma categoricamente di essere la parola di Dio. È vero che i credenti delle varie religioni sostengono di possedere un testo rivelato da Dio, ma solo gli autori dei libri della Bibbia affermano centinaia di volte categoricamente così dice l'Eterno, oppure la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta. Mentre, per fare un solo esempio, Maometto ha ricevuto la rivelazione da un angelo. Inoltre, mentre Gesù disse di essere il figlio di Dio, Maometto disse di essere il profeta di Dio. Buddha disse di essere l'illuminato. Russell disse di avere avuto delle rivelazioni. Moon afferma di essere con la moglie la coppia messianica. Il Papa afferma di essere il successore di Pietro. Credere che la Bibbia sia la parola ispirata di Dio non è un atto di fede irragionevole, ma una ragionevole fede. 5. Perché è eterna. Gesù disse, «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Matteo 24.35. Se questa affermazione provenisse da un qualsiasi uomo, la si potrebbe anche non tenere in considerazione. Ma poiché è stata pronunciata da un uomo che non ha mai proferito menzogna, che non ha mai sbagliato, ci è da pensarci seriamente. Infatti le grandi religioni che imperavano prima di Cristo, e alle quali aderivano milioni e milioni di persone convinte di essere nel giusto, cioè la religione egiziana, quella babilonese, quella greca e romana, ora sono estinte, mentre la fede ebraica esiste ancora ed è sempre più attuale. Infatti la fede cristiana è l'unica fede che ha le sue radici in un'altra fede, cioè quella ebraica, per cui oggi si parla di fede giudeocristiana, dato che gli insegnamenti di Cristo provengono dalla fede ebraica. È vero che Gesù ha abolito il rituale ebraico, sacerdozio, sacrifici di animali, eccetera, ma ha completato il lato spirituale di ciò che aveva insegnato prima di assumere un corpo. Perciò potranno passare ancora tanti millenni, potranno scomparire tante religioni, ma ciò che leggiamo oggi nella Bibbia è valevole per sempre, per l'eternità. C. È forse una ragione più valida per studiare la parola di Dio? APPUNTIDIERMENEUTICA. Una volta che si è stabilito che la Bibbia è la parola di Dio, non vi può essere negli studi biblici argomento d'esame più importante e interessante di una indagine sui principi, sulle leggi e sui metodi della sua interpretazione. Infatti, quando leggiamo la Bibbia è estremamente importante ricordare che stiamo leggendo una raccolta di libri, il più giovane dei quali ha quasi 2000 anni. Non si può quindi pretendere di leggerla come se fosse un romanzo, né dare alle parole sempre un significato moderno. Siamo tutti coscienti di come certe espressioni o parole mutino il loro significato nel tempo, e già questo dovrebbe rendere ogni cristiano attento e rispettoso verso il testo biblico. Prendiamo come esempio la frase, andiamo in... Prima dell'epoca costantiniana nessuno l'avrebbe pronunciata. Per il semplice motivo che prima del IV secolo non c'erano edifici adibiti a uso ecclesiastico nell'ambito cristiano. Infatti, per i primi cristiani la Chiesa era la somma dei veri credenti, mentre oggi la stessa parola indica un edificio. Un'altra parola che ha mutato senso nel corso dei secoli è «santi». Per i primi cristiani i santi erano tutti credenti giustificati in Cristo. Mentre per la religione cattolica i santi sono coloro che hanno vissuto una vita particolarmente vicina al Signore. La Bibbia, benché sia la parola di Dio, rimane tuttavia anche un'opera letteraria e come tale è soggetta a regole e metodi di interpretazione che gli studiosi chiamano ermeneutica. Cos è l'ermeneutica? E care, l'arte di interpretare il senso di antichi testi o documenti. Cosa significa interpretare? e il modo di leggere un antico testo per rilevarne l'attinenza con l'epoca attuale. Questo ci porta a comprendere un insegnamento vecchio di millenni e tradurlo al lettore d'oggi, cioè renderlo pratico, attuale, comprensibile. Come esempio, ricordiamo l'ordine dell'Eterno in Levitico di non maledire il sordo, le 19 e 14. È evidente che il comandamento non era inteso solamente nel senso di non maledire, cioè di non dire male, chi non aveva il dono dell'udito. L'applicazione pratica è quindi quella di non parlare male di chi non è presente, cioè di chi non può sentire. Vi sono delle regole per interpretare correttamente la parola di Dio e qui di seguito prenderemo in considerazione alcuni principi indispensabili, senza i quali, oltre ad arrivare a conclusioni sbagliate, manchiamo di rispetto verso colui che ha voluto far conoscere il suo pensiero. 1. Il senso della scrittura va trovato nel significato grammaticale delle parole. Il rispetto del senso grammaticale costituisce la regola fondamentale nello studio di tutti i libri. E la Bibbia, benché a giusto titolo sia riverita come il libro dei libri, resta pur sempre un libro. In essa possiamo trovare la presenza della metafora e del simbolo, ma senza che ciò sopravvalga al principio fondamentale dell'obbedienza al senso grammaticale. Prendiamo in esame una delle più conosciute affermazioni di Gesù, che è stata ed è tuttora oggetto di discordia tra cattolici e protestanti. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Mt. 16 e 18. Gesù chiese ai discepoli che cosa la gente pensasse a suo riguardo, e Pietro, per lo Spirito Santo, gli rispose che egli era il figlio di Dio. Dopo tale confessione, Gesù replica che avrebbe edificato la chiesa sulla pietra. Questo è ciò che dice il testo. Se siamo in grado di leggere senza preconcetti ciò che Gesù ha detto, è evidente, la chiesa è fondata sulla pietra, e qualsiasi interpretazione che noi attribuissimo al discorso di Gesù non potrebbe scostarsi da questo aspetto. 2. La scrittura si interpreta con la scrittura. Questa regola è importante, soprattutto là dove occorre dare un significato alle parole. Prendiamo come esempio due parole, pietra e morte. In Matteo 16 e 18 abbiamo notato che Gesù Cristo dichiarò che avrebbe edificato la chiesa sulla pietra. Poiché le interpretazioni variano da religione a religione, dobbiamo saggiamente confrontare le altre parti della scrittura nelle quali questa parola sia adoperata. Ecco cosa disse Pietro. Nella scrittura si legge infatti: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo, pietra d'inciampo e roccia d'intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola, e a questo sono altresì stati destinati. 1 Pietro 2:6-8. Non vi sono dubbi. La pietra angolare, ragione di salvezza per chi crede e di perdizione per chi non crede, è Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo è ancora più esplicito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito, e Colossesi 2:18-22. La Chiesa, quale edificio, ha per fondamento gli apostoli e profeti, e quale pietra angolare ha Gesù Cristo. Questa verità è stata affermata sia da Pietro, sia da Paolo, e quest'ultimo lo proclamò quando Pietro era ancora in vita. Perciò, l'attribuire la parola pietra all'apostolo Pietro non trova alcun fondamento veritiero. La scrittura non ci permette tale conclusione, anche se un professore del Nuovo Testamento come Colin D. Cluse, nel suo commentario al Vangelo di Giovanni, edito dai GBU 2007, scrive a pagina 99. Forse perché Pietro sarebbe stato il più importante predicatore del Vangelo dopo la resurrezione di Gesù. Gesù lo ha descritto come la roccia su cui sarebbe stata edificata la Chiesa. Questo dimostra che essere professori di teologia non è una garanzia per evitare di dire sciocchezze. In relazione alla parola morte, nella parabola del figlio prodigo, il padre, al fratello maggiore che non voleva entrare, disse: «Figlio, tu sei sempre con me, e ogni cosa mia è tua». Ma si doveva fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Luke 15:24. Per i testimoni della torre di guardia, la parola morte esprime l'idea dell'annientamento. Ma il padre della parabola, dichiarando che il figlio era morto, con tale parola, intendeva sostenere che il figlio si era allontanato, non avendo più così comunione con lui. Nella Bibbia il termine morte ha sempre il significato di separazione. 3. Un testo, preso fuori dal contesto, diventa un pretesto. Qualsiasi definizione biblica, presa fuori del suo contesto, può portare a conclusioni contrarie al suo significato. Citando impropriamente la Bibbia possiamo addirittura dimostrare, leggendo dal Salmo 14, che essa neghi l'esistenza di Dio, anche se esaminandone il contesto appare palese che tale affermazione esca di bocca allo stolto. Così, succede spesso di ascoltare argomentazioni su passi biblici motivate da pretesti finalizzati a sostenere tesi personali e preconcette. I testimoni della torre di guardia attribuiscono a loro stessi il numero dei 144.000, citato in Apocalisse 7:4, ma il contesto ci porta a comprendere che tale numero sia riferito alle 12 tribù di Israele. Se ignoriamo il contesto, i 144.000 potrebbero essere qualsiasi gruppo religioso, o anche politico, o sociale. Lo stesso dicasi per le asserzioni di Gesù: «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo». I figli di Dio le ritengono rivolte a loro stessi, ma Gesù si stava rivolgendo a coloro che erano poveri in spirito, a coloro che erano affamati di giustizia, a coloro che soffrivano causa il nome di Gesù. Di conseguenza risulta evidente che si possa essere figli di Dio e non essere necessariamente una luce per il mondo. 4. Conservare il senso letterale. Ovunque lo permetta l'armonia della scrittura e non lo vieti la ragione, l'interpretazione letterale che non altera il senso resta sempre la più onesta e, 9 volte su 10, quella più razionale e significativa. Quando si afferma che la Bibbia deve essere interpretata letteralmente, non significa che essa non contenga elementi metaforici, ma semplicemente che quando uno scrittore impiega una metafora, il significato figurato che scaturisce da esso è il suo significato letterale. Leggiamo per esempio nel libro del Cantico dei Cantici: «O mia sorella, o sposa mia, tu sei un giardino serrato, una sorgente chiusa, una fonte sigillata». 4:12. Alcuni cristiani, nella lettura di questo libro, si trovano in imbarazzo per cui allegorizzano o spiritualizzano ogni affermazione. Come disse qualcuno, la piacevole arte dell'allegorizzare è dura a morire. È vero che una moglie non è un giardino, né una sorgente chiusa, né una fonte sigillata, nel senso che noi intendiamo. Rimane però vero il significato letterale che scaturisce dall'allegoria, e cioè che una moglie è un bene, giardino, sorgente, fonte, una benedizione personale. Chiuso, chiusa, sigillato. Se il senso allegorico non rispetta questa regola, noi facciamo dire al testo ciò che non vuol enunciare. Anche nel passo di Matteo 16:18 possiamo notare come sia indispensabile conservare il senso letterale. Gesù è la pietra angolare della Chiesa, non nel senso che sia veramente una pietra, cioè un minerale, ma egli è la pietra a tutti gli effetti. Su di lui è costruita la Chiesa, essendo la pietra angolare, cioè quella su cui poggia tutto l'edificio, perché egli è la base sicura su cui appoggiare il piede della fede. Anzi, l'immagine della pietra è inferiore al significato di ciò che Gesù è per la Chiesa. 5. distinguere a chi è rivolto il messaggio. Com'è vero che non bisogna fare di tutte le erbe un fascio, così occorre, di volta in volta, considerare il destinatario al quale è rivolto il messaggio. Un giorno Pietro, nell'udire una parabola, chiese: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?» Lume mezzogiorno e 41. Egli era cosciente che le parole di Gesù non erano rivolte sempre a tutti. Così l'ordine di Gesù rivolto al giovane ricco di vendere ogni cosa non può essere esteso a tutti. Emiti 19:21. Ma ciò che è richiesto a tutti i credenti è di compiere buone opere. 1 Timoteo 6:17-19. Così la chiamata a evangelizzare rivolta a Paolo non può essere estesa a tutti. Atti 9:1-9:16. Mentre il compito di ogni cristiano è quello di essere un testimone. 1 Pietro 3:15. CONCLUSIONE. La Bibbia è il più importante libro del mondo, perché è il resoconto dell'opera di Dio e perché, mediante essa, colui che è infinitamente eterno e impenetrabile si è fatto conoscere. L'interprete che si avvicina a essa deve avere uno spirito di umiltà e deve essere consapevole di appressarsi a pensieri che non fanno parte della logica umana. Is 55:8-9, 1 Cor 2:9. L'unico vero spirito dello studio biblico si esprime nella prontezza a credere a ogni promessa senza riserve, a ubbidire a ogni comando senza esitare ad essere perfetti e completi in tutta la volontà di Dio. Paolo ammonì: «Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in quest'età, diventi stolto affinché possa diventare savio». 1 Cor 3:18, perché la follia di Dio è più savia degli uomini. 1 Cor 1:25. LABBIAQUALPARO LADDIO. La Bibbia è la parola di Dio. Questa è una delle enunciazioni fondamentali del cristianesimo e, di conseguenza, una delle più frequenti affermazioni sulla bocca dei cristiani. Paradossalmente, però, è molto probabile che essa sia anche la più fraintesa. Confessando che la Bibbia sia la parola di Dio, non vogliamo intendere che tutte le parole in essa contenute siano parole di Dio, né che ognuna di queste sia stata pronunciata da Dio. Essa è la parola, cioè il Logos, l'annuncio, il messaggio, che Dio ha voluto indirizzarci perché fosse letta, creduta e ubbidita. Per afferrare questo discorso, di solito, occorre valutare la lingua originale. Gli scrittori del Nuovo Patto usano due termini greci per indicare il vocabolo parola, logos, e rema. Usando il sostantivo rema, essi intendono una speciale rivelazione fatta in modo particolare ad una specifica persona. Con logos, invece, lo scrittore si riferisce a un discorso, a un detto, a un annuncio, a una notizia. Esaminiamo, in alcuni passi della scrittura, la parola rema. A. Luca 3:2. La parola rema di Dio fu diretta a Giovanni. Luca fa notare che il messaggio particolare di Giovanni proveniva da parte di Dio. B. Ebrei 6:5. Quelli che hanno gustato la buona parola rema di Dio, punto è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento. L'autore della lettera non si riferisce al semplice ascolto della Bibbia, ma alle conseguenti rivelazioni date loro da Dio e derivanti dall'ascolto stesso della parola. Se in seguito la persona rifiuta l'azione dello Spirito Santo, è impossibile trovare un altro mezzo per farla ravvedere. C. Matteo 4:4. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola rema che proviene dalla bocca di Dio. Spesso si insegna che l'uomo per la sua sopravvivenza abbia bisogno, oltre al pane, anche della parola di Dio. Gesù qui non si riferiva però alla parola di Dio, cioè alle scritture. Egli metteva in evidenza che l'esistenza di ogni essere umano è dovuta ad un intervento di Dio, perché lui lo ordina, lo afferma, secondo una sua precisa volontà. Per una maggiore comprensione, porto un esempio. Ero sposato da un anno. Mia moglie lavorava e io tornavo a casa prima di lei. In uno di quei giorni, mentre l'aspettavo, lessi nel libro del Deuteronomio. Il versetto 3 del capitolo 8 colpì profondamente il mio spirito. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Deuteronomio 8:3. Dunque, Dio aveva condotto il popolo di Israele in situazioni difficili e impossibili per insegnare loro che, se essi erano ancora in vita, ciò si doveva al suo volere. La nostra esistenza non dipende solo dalla cura che abbiamo di noi stessi, ma anche da una precisa volontà di Dio. Una situazione impossibile rende quindi possibile l'evidenza della sovranità di Dio. Ero così felice che Dio mi avesse fatto comprendere correttamente questo famoso versetto, che decisi di predicarlo alla prima occasione. Venne la domenica opportuna. Come di consueto, partì con la macchina per andare a prendere dei bambini e portarli in sala, ma in una curva sbandai, finendo contro un palo. Battei violentemente la testa e ruppi il vetro, ma rimasi vivo e cosciente. Molto gentilmente qualcuno mi portò a casa e a piedi andai con mia moglie alla sala. Al mio turno mi alzai, lessi il passo di Deuteronomio 8:3 e iniziai a dire: «Cari fratelli, la verità di oggi è che, se noi siamo in vita, è per volere di Dio, e non solo perché ci prendiamo cura di noi, da noi stessi». In quel momento solo due persone sapevano cosa stavo dicendo e che il mio parlare non era, come sempre, retorico. Prendiamo in esame ora la parola Logos. A. Matteo 13 e 19. Tutte le volte che uno ode la parola Logos del Regno. Gesù voleva riferirsi a tutte le volte che uno sente parlare della notizia, dell'annuncio del Vangelo. B. Romani 13, 9. Qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola Logos. Ama il prossimo tuo come te stesso. Il senso del discorso di Paolo è questo. Tutti i comandamenti si possono riassumere in questa affermazione, in tale detto. C. Es 34, 28. Nella versione Luzzi leggiamo: «L'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto». Le 10 parole, Logos. Dio scrisse sulle tavole del patto, non semplici parole in numero di 10. Come noi possiamo intendere, ma 10 discorsi, annunzi, proposizioni. 10 comandamenti. Appunto. Dunque, affermando che la Bibbia è la parola di Dio, vogliamo intendere che essa è il Logos, cioè l'annuncio, la notizia, ispirata parola per parola da Dio, rivolta a noi. Quando leggiamo questa notizia, lo Spirito Santo la trasforma in rema, cioè in un messaggio personale, una rivelazione diretta. Nel Salmo 19 leggiamo che «I cieli raccontano la gloria di Dio». Il messaggio di un Dio creatore è sempre presente agli occhi di tutti, ma solo quando lo Spirito Santo opera nel cuore dell'uomo, egli riesce a prendere coscienza riguardo alla presenza e dell'opera di Dio. La Bibbia rimane un costante annuncio che la gente riceve, ma senza penetrarlo e senza essere da questo penetrata. Poi, un giorno accade che Dio riveli all'improvviso le sue parole, come nel caso di Agostino e Lutero, tanto per citare due casi famosi. La persona, finalmente illuminata, comprende ora la volontà di Dio. In quel momento la parola di Dio, da Logos, diventa rema. Esiste un'altra bellissima esperienza che fanno i figli di Dio. Lo Spirito Santo usa la scrittura per parlare loro, usando espressioni che non sono necessariamente in armonia con il contesto. Porto due esempi. Un giorno mia suocera andò al capezzale di uno dei suoi figli, che si trovava in coma, in conseguenza ad una caduta in montagna. I medici davano poche speranze, ed essa, con cuore straziato di madre, chiese a Dio che cosa ne sarebbe stato di suo figlio. Avendo in quel momento con sé la parola di Dio, lesse: «Per l'iniquità della sua cupidigia io mi sono adirato e l'ho colpito. Mi sono nascosto, mi sono indignato, ma egli, ribelle, ha seguito la via del suo cuore. Io ho visto le sue vie e lo guarirò. Lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Isaia 57, 17-18. Essa non considerò il contesto in cui l'affermazione era collocata, né rifletté a chi fossero rivolte quelle parole. Credette semplicemente a ciò che lei ritenne la risposta di Dio alla sua invocazione. Passarono vari mesi e il figlio continuava a rimanere in coma. Un giorno egli cominciò a parlare e, nel giro di pochi anni, contrariamente al parere dei medici, divenne autosufficiente e tornò a lavorare anche se rimase paraplegico. L'altro esempio è il seguente. Un accanito fumatore divenne un figlio di Dio e subito si pose il problema se fosse lecito o no continuare a fumare. Egli voleva smettere di fumare, ma il suo desiderio del fumo era molto forte. Così un giorno, mentre stava fumando, tenendo la sigaretta accesa nella mano destra, chiese a Dio di parlargli, aprì la sua Bibbia e lesse nel libro del profeta Isaia. Un uomo si pasce di cenere, il suo cuore sviato lo inganna al punto che non può liberarsene. E dire, ciò che stringo nella destra non è forse una menzogna? Inutile dire che egli smise all'istante di fumare. Questo non è certamente il metodo normale per consultare la parola di Dio. Rimane pur vero però che, in circostanze particolari, Dio possa usare la sua parola come egli voglia. Distinguiamo ora le parole della Bibbia. Iniziamo sostenendo che la parola di Dio contiene anche molte affermazioni false. Essa, infatti, narra di quel che hanno detto uomini buoni e cattivi, ispirati, e non. Essa riporta al suo interno le parole degli angeli, ma anche quelle del diavolo. È vero che essi hanno detto quel che viene loro attribuito dalla Scrittura, ma il contenuto delle loro asserzioni non è automaticamente la verità. Apprestandosi a leggere la parola di Dio, è bene dunque fare distinzione tra 1. Le parole di Dio, 2. Le parole di Gesù, 3. Le parole degli angeli, 4. Le parole degli uomini, 5. Le parole di Satana, 6. Le considerazioni degli scrittori, 7. Le aggiunte di questi, 8. La tradizione giudaica. Prendiamo in esame ogni aspetto. 1. Le parole di Dio, Matteo 3 e 17. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo, che disse, «Questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto». Possiamo definire parole di Dio, cioè propriamente espresse da lui, tutte quelle affermazioni che gli autori biblici gli attribuiscono. 2. Le parole di Gesù, Giovanni 4, 34-37. Gesù disse loro, «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Ora il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Poiché Gesù Cristo è Dio, tutte le sue parole potrebbero erroneamente essere ritenute come fossero dette direttamente dalla bocca a Dio. È importante a questo proposito notare che Gesù invece non ha sempre in ogni discorso riferito parole che fossero specificatamente le sue o quelle del Padre. A volte egli ripeteva semplicemente dei detti che erano di dominio pubblico, come nel brano già citato, e anche in Matteo 16, 2 a 3. Poi si accostarono a lui i farisei e i sadducei e, per tentarlo, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro e disse, «Quando si fa sera, voi dite, farà bel tempo perché il cielo osseggia. E la mattina dite, oggi farà tempesta, perché il cielo tutto cupo rosseggia. Ipocriti, ben sapete dunque distinguere l'aspetto del cielo, ma non riuscite a discernere i segni dei tempi? Questo particolare dovrebbe insegnarci a non cadere nella bibliolatria, cioè a ritenere solo parola di Dio tutto ciò che è scritto nella Bibbia. Gesù ci insegna a considerare che non tutta la sapienza degli uomini è malvagia. Del resto, lo stesso principio è stato dimostrato anche da Paolo, quando nel discorso all'Areopago disse: «Poiché in lui Dio viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie», Atti 17 e 28, Paolo non stava facendo una lezione di teologia, stava semplicemente prendendo in prestito un'affermazione di un poeta per confermare che il Dio dei cristiani è sempre presente. 3. Le parole degli angeli, Isaia 6, 1 a 3. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo, è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Tutte le parole degli angeli sono indiscutibilmente giuste e sono da ritenere parole di Dio. A. Le parole dell'Ecclesiaste, Ecclesiaste 1, 12, 15, 4. Le parole degli uomini. Io, il predicatore, sono stato re di Israele, in Gerusalemme, e ho applicato il mio cuore a cercare e a investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità e un cercare di afferrare il vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare e ciò che manca non si può contare. Il libro dell'Ecclesiaste è un libro tutto particolare. Non comprendendolo nel suo significato intrinseco, ci porterebbe a conclusioni certamente assurde. L'autore riporta le riflessioni del suo cuore. In effetti, egli non dichiara, come fanno gli altri profeti, l'Eterno dice, ma esprime il suo punto di vista intorno alle cose della vita. Ecco perché egli afferma che tutto è vanità, e altrove, che la sorte degli uomini è simile a quella delle bestie. Tutti e due diventano polvere dopo la morte. Non per nulla. L'Ecclesiaste è stato definito un libro di filosofia. È chiaro che non tutto ciò che afferma sia vero, anche se è un testo appartenente alla parola di Dio. B. Gli amici di Giobbe, Giobbe 42, 7. Ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman: «La mia ira si è accesa contro te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe». Il libro di Giobbe è ricco di insegnamenti, ma i tre amici di Giobbe non sempre parlano di Dio. Secondo verità, occorre quindi vigilare nel trarre lezioni spirituali dalle loro parole. C. Le parole di Tertullo, Atti 24, 2 a 5. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: «Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto, e con profonda gratitudine, che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue previdenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego nella tua benevolenza di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo, ed è capo della setta dei Nazareni». Tertullo era un oratore pagano, pagato per accusare ingiustamente Paolo. Le sue parole non sono quindi da considerarsi vere. D. Le parole degli stolti. Salmo 14, 1. Lo stolto ha detto nel suo cuore: «Non che è Dio». Sono corrotti, fanno cose abominevoli. «Non che è alcuno che faccia il bene». Spesso prendo questo versetto per dimostrare come, citando a sproposito la Bibbia, si possa arrivare a dire di tutto. In effetti, se vogliamo, estrapolando il suddetto versetto fuori del suo contesto, potremmo anche dire che la Bibbia affermi che Dio non esista. E le parole di una prostituta espresse in una canzone, Isaia 23, 15-16. In quel giorno avverrà che Tiro sarà dimenticata per 70 anni, quanti sono gli anni di un re. Al termine dei 70 anni avverrà a Tiro come dice la canzone della prostituta. Prendi la cetra, va. Attorno per la città. O prostituta dimenticata. Suona con bravura, moltiplica i canti per poter essere ricordata. Nella parola di Dio abbiamo anche delle parole di una prostituta. Gli strumenti umani usati da Dio per parlare all'uomo sono veramente incredibili. Queste riflessioni producono nel mio spirito un santo zelo nel mio servizio a Dio, perché sono consapevole del fatto che, per quanto poco ed insignificante io sia, Egli è in grado di servirsi di me. Possa essere così anche per te. 5. Le parole di Satana. Genesi 3, 1 a 4. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: «Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». Le parole di Satana sono da ritenere sempre bugiarde. La seguente barzelletta rende l'idea. Un uomo morì e andò in cielo. Alla richiesta di dove volesse andare, chiese di poter vedere prima i luoghi. Andò all'inferno e vide la gente che si divertiva, che ballava, giocava più non posso. Andò in paradiso e vide la gente che cantava inni e pregava tutto il giorno. Ritornato in cielo, disse: «Preferisco l'inferno perché nella vita mi sono stancato di cantare inni e pregare tutto il giorno». Come entrò all'inferno, vide la gente che urlava e bestemmiava dal dolore tra le fiamme. Sorpreso, disse al diavolo: «Ma non era questo il luogo che ho visto prima?» «E, vero», rispose il diavolo, «ma quella era solo pubblicità». Come può parlare Satana di verità, lui che è il padre della menzogna? E, vero che egli fa affermazioni corrispondenti alla verità, oppure come nel caso della tentazione di Gesù che citi addirittura la parola di Dio, ma, essendo il suo scopo sempre malvagio, tutto quanto egli affermi non corrisponde alla verità. Le sue sono sempre verità bugiarde. La verità, per essere tale, deve anche essere accompagnata da una buona motivazione, cioè l'amore, che è ben distinto dal sentimentalismo. Altrimenti non è più verità. 6. Le considerazioni degli scrittori. Nella Bibbia notiamo che gli scrittori aggiungono il loro pensiero a ciò che Dio aveva loro ispirato. Anche questo è da ritenersi ispirato da Dio. A 7:37-39 il commento di Giovanni. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva». Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Al versetto 39, Giovanni ha ritenuto opportuno spiegare il significato dell'affermazione di Gesù, dato che era rivoluzionaria. Lo Spirito Santo di cui parlava Gesù aveva la funzione particolare di far diventare figlio di Dio colui che lo ricevesse, il quale di conseguenza diventava parte del corpo di Cristo. Giovanni si preoccupa di ricordare ai suoi lettori che questa funzione dello Spirito non si era ancora attuata. Quanti sono i cristiani che hanno afferrato questo concetto? B. Marco 7:17-19, il commento di Marco. Quando poi egli, Gesù, fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro: «Siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna? così dicendo, dichiarava puri tutti gli alimenti. Al versetto 19, Marco commenta il discorso di Gesù. Questa sua considerazione, come quella di Giovanni, storicamente ha una importanza enorme, considerando che gli ebrei erano pronti a morire pur di non contaminarsi con i cibi. Prova ne è che Dio ha dovuto dire per tre volte a Pietro di mangiare cibi impuri. La precisazione di Marco è significativa e da tenere in considerazione. C. 1 Corinzi 7, 12, 25, il parere di Paolo. Agli sposati invece ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito. E il marito non mandi via la moglie. Ma agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa acconsente di abitare con lui, non la mandi via. Giacché nella legge non vi erano prescrizioni riguardo ai problemi nei quali i cristiani si imbattevano, Paolo, guidato dallo Spirito e rivestito dell'autorità apostolica, ritiene opportuno consigliarli. Chi aveva un coniuge non credente non doveva cercare di separarsene. Dinori 12, 3 e 1 Re 21 e 25 e 26, il carattere di Mosè e di Acab. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. In verità non ci fu mai alcuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno come Acab, perché era sospinto da sua moglie Jezebel. Gli scrittori biblici hanno definito Mosè l'uomo più mansueto, Acab, l'uomo più malvagio. Queste enfasi poste dagli scrittori non dovrebbero sfuggirci. Mosè fu un uomo che per tutta la vita subì delle opposizioni e la cui autorità fu spesso messa in discussione. Ma egli non si ribellò mai. Acab, nel momento della sua umiliazione davanti a Dio, fu esaudito. 1 Re 21, 27-29. Grande esempio della misericordia di Dio e della potenza dell'umiliazione, l'umiltà è il tallone di Achille di Dio. 7. Le aggiunte degli scrittori biblici. Abbiamo considerato che la Bibbia è formata da 66 libri. Questi non furono scritti di getto, in un colpo solo. Essi sono giunti a noi dopo varie elaborazioni nel corso delle quali furono fatte aggiunte da altri autori. Anche queste parti della scrittura sono da ritenersi ispirate. Ar, l'ultimo capitolo di Giovanni, Giovanni capitolo 21. Il Vangelo di Giovanni, nella sua stesura originale, termina al versetto 31 del capitolo 20. Non dovrebbero esserci dubbi al riguardo, perché lo stesso autore del capitolo 21 scrive: «Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose». Lo scopo di questa aggiunta sembra evidente. Chiarire il malinteso della frase di Gesù, riferita a Giovanni, e la riabilitazione di Pietro. B. L'ultima parte del libro dell'Ecclesiaste, Ecclesiaste 12, 11-16. Il predicatore, oltre ad essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la conoscenza e ha ponderato, ricercato e messo in ordine un gran numero di proverbi. Il predicatore si è studiato di trovare parole piacevoli e le cose scritte sono giuste e vere. Se si considera il libro dell'Ecclesiaste un libro di filosofia, nulla di strano che un discepolo dell'autore abbia ritenuto opportuno avallare il libro. Per cui gli ultimi versetti del libro sono posteriori alla sua stesura. C. La morte di Mosè, Deuteronomio, capitolo 34. Così Mosè, servo dell'Eterno, morì là, nel paese di Moab, secondo la parola dell'Eterno. E l'Eterno lo seppellì nella valle del paese di Moab, di fronte a Bet Peor, e nessuno ha conosciuto fino ad oggi il luogo della sua tomba. Dalla lettura di questo capitolo si comprende che Mosè non abbia potuto descrivere la sua morte. Alcuni commentatori attribuiscono la stesura di questo capitolo a Giosuè, ma da come evince in tutta la Torah, la descrizione appartiene allo stesso redattore del Pentateuco. D. L'ultimo capitolo di Geremia, Geremia capitolo 52. Il libro di Geremia termina con una profezia riguardante Babilonia. Un copista molto probabilmente ha ritenuto opportuno eseguire un'aggiunta per dimostrare ai lettori che le parole di Geremia si erano avverate e quindi incoraggiare gli esuli depressi. Se si erano adempiute le profezie riguardanti il popolo di Israele, si sarebbero avverate pure quelle relative alla distruzione di Babilonia. 8. La tradizione giudaica. 2 Timoteo 3, 8, Giuda 9. La tradizione giudaica insegna che Mosè ricevette sul Sinai due leggi, in ebraico Torot plurale di Torah. La legge scritta, che troviamo nel Pentateuco, e la legge orale, cioè le tradizioni ebraiche. Quest'ultima fu, solo in un secondo tempo, tra il 300 avanti Cristo e il 500 dopo Cristo, considerata divinamente ispirata. Troviamo, di conseguenza, nel Nuovo Patto dei riferimenti ad alcuni testi extrabiblici, dettagli ed episodi, dei quali non si parla nell'Antico Patto, tratti da testi giudaici precedenti al Nuovo Patto. Ecco due di questi. A. E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. L'Antico Patto non ci riferisce i nomi dei maghi egiziani che si opposero a Mosè. Paolo, guidato dallo Spirito Santo, attinge dalla tradizione giudaica ciò che è conforme alla verità. B. Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi, Signore!» Dalla Torah non sappiamo nulla dell'arcangelo Michele e di un'eventuale contesa con Satana per il corpo di Mosè. Anche Giuda attinge da fonti storiche che precedono il Nuovo Patto. La Bibbia come parola di Dio deve essere considerata nel suo insieme, ne consegue che l'armonia scritturale diventi l'elemento fondamentale per una corretta interpretazione della scrittura. Quello che leggiamo nel Salmo 119-160, la somma della tua parola è verità, esprime molto bene questa realtà. Essa è la somma della parola che può esprimere senza errori il vero pensiero di Dio. Quando ero giovane nella fede, affermavo, come faccio tuttora, che la Bibbia è la parola di Dio. Venendomi però richiesto di esprimere in poche parole il suo contenuto, spesso mi trovavo confuso. Un giorno, nella mia lettura quotidiana, trovai una risposta in Proverbi 26, 4 a 5. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba assomigliare. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Alla luce di questa affermazione, ecco come è la parola di Dio. 1. Contiene verità opposte. È giusto rispondere allo stolto secondo la sua follia, a volte tuttavia è giusto il contrario. Qualsiasi verità che ne neghi un'altra porta all'eresia. Come disse Charles Simeon, la verità non è in mezzo, o a una estremità, ma alle due estremità insieme. La Bibbia è per eccellenza il libro delle verità opposte. Dio è colui che si rivela, ma è pure un Dio che si nasconde. Matteo 16, 17 e Isaia 45, 15. Gesù è un santuario, cioè colui che ci porta alla presenza di Dio. Nello stesso tempo è anche una pietra di intoppo, un sasso di inciampo, cioè colui che ci impedisce di conoscere Dio, Isaia 8 e 14. Gesù è colui che è venuto sia per accecare sia per illuminare, Giovanni 9 e 39. Lo stesso cristiano è un messaggero di vita e di morte contemporaneamente, 2 Corinzi 2,16. Anche la nuvola che guidava Israele faceva buio agli egiziani, mentre contemporaneamente faceva luce agli israeliani. Esodo 14 e 20. Come occorrono sia il sole, sia la pioggia per formare un arcobaleno, così per poter vedere ogni aspetto della verità, dobbiamo vederne gli estremi. 2. Conduce all'equilibrio. Un comportamento a senso unico non piace a nessuno. Occorre rispondere allo stolto nel modo in cui egli si esprime, ma non sempre. Comportandoci così, adempiremo all'esortazione dell'Ecclesiaste: non essere troppo giusto, non essere troppo empio. Chi teme Dio evita tutte queste cose. 7, 16-18. 3. E. Pratica. Molti libri riempiono la testa di tante idee, ma alla fine non danno consigli pratici. La parola di Dio, invece, ci insegna tante verità pratiche, tra le quali anche come convenga parlare. Sembra cosa di poco conto il saper rispondere, ma Giacomo, il fratellastro di Gesù, afferma che chi non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, cioè completo. Giacomo 3, 2. 4. Conduce alla santità. Il tema principale del messaggio di Dio è «Siate santi», Levitico 11 e 44 e 1 Pietro 1 e 16. Nel proverbio citato, notiamo l'invito di Dio a non comportarsi come lo stolto, ma ad avere un atteggiamento di santità, perché tu non gli debba somigliare. 5. Da saggezza. La mia difficoltà, e forse non solo la mia, non è vivere, ma convivere. Questo proverbio ci insegna ad avere un comportamento corretto nei confronti del prossimo. Ci sono momenti in cui, come ben mostrava Gesù, occorre rispondere chiaramente a tono, Marco 11 e 33, altri, invece, in cui necessita lasciar correre. 6. E un messaggio di pazzia. Una persona che risponde allo stolto, secondo la sua pazzia, che parla il suo stesso linguaggio, molto probabilmente verrà fraintesa. Spesso, con certe persone, fa più effetto un discorso paradossale che un ragionamento sensato. Un giorno, il predicatore Spurgeon udì un tagliapietre che bestemmiava in modo orribile. Gli si accostò e gli disse: «Lei sa bestemmiare veramente bene? Sa pregare altrettanto bene?» «Oh, diavolo!» esclamò l'operaio, «quest'idea non mi è ancora mai venuta a meno». Spurgeon trasse dalla sua tasca una moneta d'argento e la mostrò al bestemmiatore. «Se le do questa moneta, mi promette che non pregherà mai?» «E è un guadagno facile», esclamò l'altro. Promise e prese la moneta. Finito il suo lavoro, l'uomo, contrariamente alle sue abitudini, rientrò direttamente a casa sua. Sua moglie, sorpresa, lo guardò e gli chiese, intendendo che fosse successo qualcosa: «Cos'hai? Come ti senti?» «Mi è accaduta una cosa spaventosa. Ho incontrato il diavolo in persona e mi ha fatto promettere di non pregare mai più nella mia vita. Tieni», e mostrò la moneta, «ecco il salario di Giuda. Io non posso tenerla». E buttò terrorizzato la moneta sul tavolo. Più tardi la moglie rintracciò Spurgeon. Ebbe un incontro con lui assieme a suo marito, e questi si convertì. Un altro efficace episodio è quello del re Salomone. Di fronte a due prostitute che si avvalevano del diritto d'essere la madre dello stesso bambino, egli chiese una spada per dividere in due la creatura e darne così una metà a ciascuna. Dinanzi a questa decisione, la vera madre inorridì e preferì cedere suo figlio all'altra. Una simile reazione chiarì a Salomone chi fosse la vera madre. Una decisione più sensata non avrebbe prodotto il medesimo risultato. 7. E un messaggio d'amore. Dal proverbio 26, 4 a 5, già citato, notiamo la preoccupazione di Dio di voler far del bene al prossimo, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Il nostro parlare deve essere teso non a schiacciare il nostro interlocutore, non a farlo sentire un ignorante o un verme, ma ad aiutarlo a rendersi conto che sta proferendo ragionamenti insensati. Queste riflessioni mettono in evidenza che la verità non giace interamente nella frase «sta scritto», ma in «sta scritto» ed è altresì scritto. La seconda dichiarazione deve essere contrapposta alla prima, affinché essa risulti bilanciata e simmetrica. Proprio come l'ala destra deve agire con la sinistra per bilanciare un uccello e renderlo in grado a volare bene. La verità ha due ali, quindi per intendere rettamente la scrittura occorre trovare un senso nel quale tutti i passi contraddittori si accordino. Oppure, per intendere il significato di un autore, occorre armonizzare tutti i suoi passi contraddittori. I libri apocrifi. Uno studio del genere non può ignorare i libri apocrifi. Dato che affermiamo l'esistenza di una sola Bibbia e, poiché le Bibbie edite da associazioni cattoliche contengono anche libri non contenuti in altre pubblicate da editori diversi, dobbiamo di conseguenza dare un breve spazio ai libri apocrifi. Il termine apocrifo deriva da una parola greca che significa nascosto. Questo termine è stato impiegato in riferimento ad un certo numero di scritti dell'Antico Patto, 14 o 15, considerati inaffidabili per la loro origine incerta e per il loro valore. Essi furono composti nel corso degli ultimi due secoli aci e nel primo secolo successivo. Dall'epoca del Concilio di Trento 1545 G. Vogastra, 1563, la religione cattolica romana considera ispirati alcuni di questi libri, alla pari degli altri, dell'Antico Testamento. Si tratta in particolare dei libri di Tobia, Giuditta, Sapienza di Salomone Ecclesiastico, Baruch 1 e 2, Maccabei, oltre ad alcune aggiunte ai libri di Ester e di Daniele. Il nostro principale problema è quello di stabilire se queste aggiunte, contenute nelle Bibbie di edizione cattolica, debbano essere considerate come scrittura, cioè come parola di Dio. Da notare che è in discussione un testo pari per lunghezza a 2/3 del Nuovo Testamento. La nostra conclusione sarà che i libri apocrifi non fanno parte del canone dell'Antico Testamento. La parola canone deriva dalla parola greca canon, che significa elenco stabilito, misura, regola o norma che possiede autorità. Ai libri canonici appartengono quindi soltanto tutti i libri ispirati da Dio che costituiscono la regola di fede e di condotta per un cristiano. Ecco alcune ragioni. 1. Non vi sono segni che ne attestino l'origine divina. La parola di Dio, per essere tale, non deve contenere errori di nessun genere. Per questo, nessun risultato della scienza, dell'archeologia, della fisica, della geologia o dell'astronomia si trova ad essere in contraddizione con la Bibbia. I libri apocrifi, invece, come Tobia e Giuditta, contengono errori storici, cronologici e geografici. Questi libri giustificano la falsità e l'inganno e fanno dipendere la salvezza dalle opere meritorie. Nel libro di Tobia, per esempio, si sostiene che far le elemosine salvi dalla morte, 4:10, 12:9. Il libro della Sapienza insegna che la creazione del mondo venne fatta a partire dalla materia preesistente, 11:17. In Baruch è detto che Dio ascolta le preghiere dei morti, 3:4. In 1 Maccabei sono contenuti errori storici e geografici. Inoltre, gli autori ispirati da Dio affermano centinaia di volte, così parla l'Eterno, o ascoltate la parola che l'Eterno vi rivolge, mentre gli autori dei libri apocrifi riconoscono che questi non siano di ispirazione divina. Ecco come conclude l'autore dei libri dei Maccabei: se la disposizione dei fatti è riuscita scritta bene e ben composta, era quello che volevo. Se invece è riuscita di poco valore e mediocre, questo solo ho potuto fare. 2 Maccabei 15:38. Così, inoltre, leggiamo nell'introduzione dell'Ecclesiastico: siete invitati perciò a farne la lettura con benevolenza e attenzione, e a avere indulgenza per quelle cose in cui sembrerà che non siamo riusciti a rendere con esattezza espressioni difficili. 2. Il canone ebraico li escludeva. Tutti i giudei accettavano come scrittura soltanto 24 libri corrispondenti ai nostri 39. Era questo il canone ebraico, al tempo di Cristo, quello da lui accettato, era il canone della Chiesa cristiana e dei padri. Il più antico elenco di libri canonici dell'Antico Testamento ora disponibile è quello di Melitone, vescovo di Sardi. Esso è datato intorno al 170 d.C. Il suo canone non contiene nessun libro apocrifo. I primi padri della Chiesa seguivano quindi strettamente il canone ebraico. A prova di questo fatto, abbiamo le testimonianze sia dello storico Giuseppe Flavio sia di Filone di Alessandria, vissuto nel primo secolo avanti Cristo. Quest'ultimo, pur citando frequentemente i libri sacri del canone palestinese, non cita però mai uno scritto apocrifo. Origene, morto nel 254, riporta anch'egli la lista dei libri di Giuseppe Flavio, corrispondente a quella del testo masoretico. 3. Il periodo profetico. I depositari della legge sono i giudei. Le autorità giudaiche richiedevano una condizione fondamentale per la canonicità dei libri. Questi dovevano essere stati scritti in quello da essi considerato il periodo profetico, cioè tra il periodo di Mosè e quello di Artaserse, 400 anni prima di Cristo. Questo escluderebbe automaticamente 1 e 2 Maccabei, scritti molto tempo dopo quel periodo. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio, dopo aver riconosciuto questo periodo profetico, aggiunge: è vero che dal tempo di Artaserse la nostra storia è stata scritta in modo particolare, ma non è stata considerata dai nostri antenati di ugual valore della precedente. Il canone ebraico, composto di 24 libri, era quindi considerato chiuso alla fine dell'era profetica, datata intorno al 400 avanti Cristo. Da quel periodo nessun materiale aggiunto è stato incluso nei libri canonici. Erano questi gli unici libri che i giudei considerassero parola di Dio e per i quali sarebbero morti piuttosto che aggiungere o togliere loro qualcosa. 4. Non sono citati nel Nuovo Testamento. Lasciamo alla sola Bibbia il compito di definire la canonicità dei libri. Il Nuovo Testamento contiene centinaia di citazioni dell'Antico Testamento. Dal modo in cui Gesù e gli Apostoli citano le Scritture, risulta evidente che essi accettavano l'Antico Testamento nella sua totalità, considerandola un'autorità normativa, quale vera parola di Dio. Questa era composta, per i giudei, di 24 libri divisi in tre grandi gruppi, la Legge, i Profeti e i Salmi. Luca, mezzanotte e 44. I libri apocrifi ne erano dunque esclusi. Nonostante i vari riferimenti all'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento non si trova una sola citazione che sia anche contenuta nei suddetti. Senza dubbio, Gesù e gli scrittori neotestamentari conoscevano l'esistenza di questi libri. Tuttavia non troviamo un solo caso in cui uno di essi sia citato come scrittura ispirata, né come avente autorità. Se vi è stata controversia tra Cristo e i farisei, essa non era dovuta all'autorità dell'Antico Testamento, ma piuttosto al fatto che i farisei avessero aggiunto a quell'autorità la loro tradizione, anche se alcuni studiosi cattolici affermano che vi siano riferimenti ad essi. Ciò non comporta che gli scrittori li ritenessero ispirati. Anche Paolo, in 1 Corinzi 15:33, trae una citazione dalla commedia Thais di Menandro. Ciò non dimostra, però, che egli ritenesse quest'opera ispirata da Dio. 5. I padri della prima Chiesa non li citavano come parola di Dio. È vero che i primi padri della Chiesa citassero gli apocrifi nei loro scritti, ma essi non davano a questi la stessa autorità della parola di Dio. Girolamo accettava solo i libri del canone ebraico. Egli riconosceva gli apocrifi semplicemente come libri di valore ecclesiastico, cioè destinati alla lettura. Atanasio, morto nel 365, elencando i libri dell'Antico Testamento, ne cita solo i libri contenuti nelle edizioni protestanti. Agostino, nello scrivere attorno al libro di Giuditta, riconosce che esso non si trovi nel canone degli ebrei. E quindi, più corretto affermare che solo alcuni fra i padri della Chiesa sembrano a favore degli apocrifi, mentre altri hanno avuto un chiaro atteggiamento contrario alla loro canonicità. 6. Discordanza da parte dei codici. Il codice Vaticano B manca dei due libri dei Maccabei che, secondo Roma, sono ritenuti canonici, mentre include l'uno di Esdra, che non riconosce canonico. Il codice sinaitico, Aleph, omette il libro di Baruch, mentre il codice alessandrino A contiene tre libri non canonici, 1 Esdra, 3-4 Maccabei. Ne deriva quindi che i nostri più importanti antichi manoscritti della traduzione operata dai LXX mostrino una considerevole incertezza per quanto riguarda la lista dei libri apocrifi e che i 14 libri, o parti di esso che la religione cattolica accoglie, non siano affatto sostenuti dalla testimonianza dei grandi onciali del IV e del V secolo. Perché, allora, troviamo? Il tutto risale circa al 250 a.C., quando Tolomeo Filadelfo avrebbe incaricato 72 eruditi ebrei di tradurre in greco i libri in possesso al loro popolo. Questi, oltre a tradurre i 24 libri ispirati da Dio, la famosa versione dei 70, il XX, tradussero anche gli apocrifi. Nel IV secolo dopo Cristo, Girolamo tradusse tutti questi scritti in latino, Vulgata, affermandone però l'estraneità rispetto alle sacre scritture. Ma la religione cattolica romana, nel 1564, proclamò lo stesso canonici quasi tutti gli apocrifi contenuti nella versione LXX e nella Vulgata. Il protestantesimo, invece, non riconobbe agli apocrifi l'ispirazione che invece caratterizza i libri canonici, pur ammettendone però l'utilità e la validità come semplice lettura, dimostrando in tal modo la propria apertura a loro riguardo. I libri apocrifi, sottoposti ad un serio esame, si condannano da soli. La loro esclusione dal canone, cioè da ciò che costituisce una regola di fede e di condotta, e, quindi, anche dal Nuovo Testamento, non è arbitraria. Anzi, possiamo affermare che i libri apocrifi si sono esclusi da soli. Queste riflessioni ci costringono ad accostarci alla lettura della parola di Dio con tanta prudenza ed altrettanta accortezza. È vero che è lo Spirito Santo ad illuminare la nostra mente. A proposito, leggiamo: ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo, che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. 1 Corinzi 2:9-13. Lo Spirito di Dio resta dunque il grande interprete della parola di Dio, non prendendo però coscienza del lato storico, linguistico e culturale di questa, non mettendo dell'impegno, considerando le imperfezioni delle traduzioni e facendo un'attenta distinzione per verificare a chi si è rivolto il messaggio, possiamo arrivare, anzi, arriviamo certamente a conclusioni fuorvianti, dannose per noi e per il prossimo. Vale la pena di leggere la parola di Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra forza, proprio con il medesimo atteggiamento richiestoci da Dio stesso. Questo sarà il trampolino di lancio per amare Dio come si deve e come Egli è benigno.